Ore, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale sul lavoro a Maniago in una fabbrica metalmeccanica. La vittima è un giovane di 22 anni. Lavorava ad una macchina quando una scheggia incandescente l'ha trafitto alla schiena. Un centinaio di operatori sanitari alla Tisana hanno ribadito la loro contrarietà all'ulteriore privatizzazione del pronto soccorso del capoluogo della Bassa. La realtà del mercato agroalimentare di Udine è uno dei più importanti del nord-est in vista della sua ulteriore modernizzazione. La SIAE ha chiuso la sede di Udine e dato il ben servito ai lavoratori, la reazione del sindacato CGL. Una scia luminosa nel cielo ha allarmato molte persone anche in regione, probabilmente era un razzo che stava scaricando il suo combustibile. La Pimpa, la cagnolina ideata da Altan, compie 50 anni, le ragioni di un successo nell'intervista che abbiamo fatto al suo autore. Alle 12.31 minuti 8 secondi, ancora un buongiorno dalla Razzani Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Incidente mortale nella notte in un'azienda di Maniago. A perdere la vita è stato un giovane di Vaionto, colpito alla schiena da un frammento metallico. Inutili i soccorsi, proprio ieri aveva festeggiato il 22esimo compleanno. Un operaio bravo, attento, scrupoloso, lavorava sempre in sicurezza, così descrivono Daniel Tafa, 22 anni compiuti ieri, colleghi di lavoro che con la voce rotta e gli occhi gonfi di lacrime a fatica commentano la tragedia appena accaduta alla STM di Maniago, un'azienda che lavora nello stampaggio a caldo in provincia di Pordenone. All'1:20 di notte il giovane è stato colpito alla schiena da una scheggia metallica lunga 10-15 centimetri. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il pronto soccorso di Maniago si trova a 3 chilometri dall'area industriale. Noi siamo con Roberto Zami della Wilm di Pordenone, il segretario provinciale. Lei dice i soccorsi sono arrivati dopo 20 minuti, è sicuro di questo? Assolutamente sì, questo riportano i colleghi che hanno effettuato ovviamente le prime manovre di pronto intervento, anche se sono state vane perché considerata la dimensione del taglio era impossibile cercare di fermare l'emorragia di sangue che ha interessato Daniel. Hanno subito chiamato i soccorsi, erano le 1:20 di notte, mi dicono, ovviamente sempre i colleghi di lavoro, che l'ambulanza è arrivata all'1:40, quindi sono trascorsi 20 minuti dal momento in cui è stata chiamata al momento in cui sono arrivati. La SORES, che gestisce i soccorsi a livello regionale, smentisce ogni ritardo e fornisce i tempi di intervento. La chiamata è arrivata all'1:27, all'1:40 l'ambulanza di Maniago era sul posto. L'automedica è partita da Pordenone, è arrivata all'1:52, l'elicottero alle 58. Purtroppo le ferite erano molto gravi, il giovane è deceduto sul posto davanti agli occhi del padre che lavorava nella stessa azienda e stava facendo lo stesso turno notturno. Maniago, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo in genere variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12 gradi, a Pordenone e Gorizia 17, a Udine 16 gradi, a Tolmezzo 11 gradi, a Tarvisio 8, Forni di Sopra e Piancavallo 7 gradi, Sappada 6 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolano 1 grado, sul Monte Lussari mezzo grado, a Lignano 14 gradi e mezzo, a Grado 14. Le previsioni, oggi cielo variabile, dalle ore centrali possibili piogge sparse o rovesci a partire dalla zona montana che potrebbero interessare nel pomeriggio anche la pianura e con un minor probabilità la costa. Saranno possibili isolati temporali, quota neve a circa 1700-1800 metri, in serata e nella notte possibili foschi o banchi di nebbia, specie sulla fascia lagunare e sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. Un centinaio di operatori sanitari hanno partecipato alla Tisana all'affollata assemblea convocata, cosa inusuale, in maniera unitaria dai sindacati di medici, infermieri e operatori sanitari, contrari all'ulteriore privatizzazione del pronto soccorso del capoluogo della Bassa, già parzialmente esternalizzato a medici argentini. Lillo Montaltomonella ha raccolto le testimonianze arrabbiate di chi dal 1 luglio verrà spostato di reparto. I sindacalisti preannunciano lo stato di agitazione se non arriveranno risposte dall'azienda sanitaria. Il pronto soccorso salva la vita, poi la distribuisce nei vari reparti e specializzazioni. Noi che salviamo le vite umane siamo ridotti in questa maniera, senza dignità, ti spostiamo, il 1 luglio non servi più, devo scegliere dove andare. Sapete cosa scelgo? Il mio pronto soccorso di La Tisana. quello scelgo e voglio rimanerci. La sala riunioni dell'ospedale di Latisana non riesce a contenerli tutti e non riesce a contenere la rabbia del personale sanitario per l'ulteriore privatizzazione del pronto soccorso, presumibilmente dal 1 luglio. Bando di gara da 3 milioni e mezzo di euro per 2 ambulatori, sala gessi e parte di radiologia, da ricollocare 9 operatori sanitari e 7 infermieri. Sembra che lavorare in un ospedale periferico sia un lavoro di serie B oggi, viene detto con frustrazione. Tante le domande del personale. Perché i nuovi assunti vengono esortati a prendere servizio nel capoluogo e non qui? Perché non rimettere gli ospedali periferici nelle reti formative in cui si addestrano gli specializzandi? Nel solo 2024 il saldo tra infermieri assunti e cessati è negativo di 75 unità. Michelle, operatrice sociosanitaria, ha fatto un concorso per una posizione da amministrativa in azienda, lascerà la sala operatoria. Facciamo turni allucinanti e tante volte manca il grazie, manca la parola di conforto e siamo arrivati a un punto dove ti portano a scegliere di intraprendere un'altra strada. Purtroppo non ci sono più proprio le condizioni per poter restare. I sindacati si incontreranno con aziende, assessore regionale alla salute nei prossimi giorni, ma sono pronti alla mobilitazione se non arriveranno risposte. Stefano Bressan, segretario generale della UIL FPL FVG. Se si trovano i fondi per il privato, altre sì, si devono trovare per il pubblico. Abbiamo avuto pieno mandato dall'Assemblea di proclamare lo stato di agitazione. La Tisana, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella sede dell'IRES di Udine, nell'evento di chiusura del progetto FVG Social Economy per favorire la diffusione e migliorare l'accessibilità dei principali dati socio-economici regionali, l'evento è stato l'occasione per premiare i migliori elaborati grafici realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico Sello e dell'ISIS Galilei Fermi. Un approfondimento sul settore no profit in regione ci è stato fornito dal ricercatore dell'IRES Alessandro Russo. Allora, un progetto che coinvolge anche i giovani, ma che vuol parlare dell'economia del terzo settore, ci sono dei dati importanti che emergono? Sì, da questo punto di vista la nostra regione è ai primi posti a livello nazionale come numero di istituzioni no profit sulla popolazione. Questa è una situazione ormai consolidata da anni, in quanto appunto l'importanza anche a livello locale del terzo settore è evidente anche da questi dati. Diciamo che è un ambito molto importante per quanto riguarda non solo l'economia ma anche l'ambito sociale, perché copre quei settori come la cooperazione sociale, per esempio l'associazionismo, lo sport, quindi diciamo che da questo punto di vista, anche visto che vengono coinvolti anche molti volontari, denota anche un senso civico, diciamo, della popolazione della nostra regione ai vertici a livello italiano, insomma. C'è qualche dato nuovo che colpisce riferito al progetto che avete appena portato a termine? Sì, diciamo, su questo è importante anche la crescita del numero di dipendenti, quindi non solo i volontari ma anche l'occupazione retribuita, che è un'altra parte comunque importante, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione sociale, che è il maggior datore di lavoro per quanto riguarda il terzo settore. Fondazioni cooperative soffrono in questo momento anche la situazione geopolitica? L'imprevedibilità, insomma, della situazione si riverbera un po' in tutti gli ambiti. Diciamo che dal punto di vista numerico c'è stata comunque una crescita delle fondazioni e, come dicevo prima, anche dell'occupazione nel settore, nonostante, appunto, parliamo degli ultimi 20 anni, anche le crisi, la pandemia, quindi probabilmente anche questa volta si dimostrerà resiliente il settore. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E ieri la SIAE ha informato i lavoratori tramite una mail che la sede udinese veniva soppressa con decorrenza immediata e subito dopo che i lavoratori interessati erano esentati dal prestare la propria opera a partire da oggi. Nessuna risposta ai sindacati, scrive in una nota la CGIL, aggiungendo che avevano chiesto nel fine settimana un incontro urgente per gestire le ricadute occupazionali sui lavoratori interessati dalla chiusura. L'ente pubblico ha inaspettatamente disatteso i percorsi contrattualmente previsti per gli interventi alla rete territoriale, conclude la CGIL. Valuteremo tutte le possibili azioni da intraprendere a tutela dei lavoratori. Cambiamo argomento. Viaggio nel mondo del mercato agroalimentare di Udine, il mercato ortofrutticolo di Piazza dell'Agricoltura, per intenderci, in attesa dei nuovi lavori di modernizzazione che partiranno a fine aprile. 150.000 metri quadrati, come 22 campi da calcio. E questa è l'estensione del mercato agroalimentare di Udine, in cui ogni giorno, ben prima dell'alba, grossisti, commercianti e imprenditori si ritrovano per consegnare e acquistare frutta, verdura e molti altri generi che poi arriveranno in negozi o ristoranti o sui banchi degli ambulanti. Massimiliano Olivo, direttore del mercato agroalimentare di Udine. Dalla mezzanotte, dall'una, a seconda delle giornate, inizia la fase di scarico, per cui alle 4 iniziano i primi acquirenti, fino alle 7 riservato alle partite IVA, per cui tutto il mondo degli Horeca, insomma degli ambulanti e della piccola distribuzione, dalle 7 possono entrare i privati. I numeri più recenti ci danno come movimentazione circa 1 milione di quintali l'anno, le ditte che vendono frutta e verdura e anche le altre merci sono circa una trentina. Uno sbocco commerciale strategico per le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia. Paolo Cervellin, operatore ortofrutticolo. Per la struttura dimensionale delle aziende agricole della nostra regione, che sono tutte diciamo di media piccola dimensione, diventa uno sbocco necessario un mercato come quello di Udine, che cerca di valorizzare queste produzioni che diversamente non avrebbero uno sbocco con la grande distribuzione. Ma il mercato ha un ruolo importantissimo anche per i commercianti al dettaglio e i ristoratori. Andrea Freschi, commerciante e presidente di FIDA Confcommercio. Importante il mercato ortofrutticolo, importante per noi avere un punto di riferimento per far sì che quelle che sono le produzioni locali, quelle che sono le produzioni di nicchia, in qualche modo riusciamo a portarle poi sulle tavole dei nostri consumatori, che sono sempre l'attore principale di quella che è la nostra attività. Di proprietà del Comune all'80% e della Camera di Commercio Pordenone Udine, il mercato è attivo dal 1984 nella zona del Partidor, in una sede dove tra un mese, grazie a un finanziamento da 12 milioni del PNRR, partirà un ampio progetto di modernizzazione ed efficientamento. Prevederà un magazzino completamente automatizzato, unico in Italia, che ci consentirà poi anche di ristrutturare, raffrescare e coibentare un pezzo importante del mercato. Udine, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Una grande luce simile a quella di una galassia spirale che dura pochi istanti, quello che basta per essere immortalata da decine di scatti con i telefonini. Un fenomeno decisamente inconsueto e affascinante, visibile da mezza Europa, compreso il Friuli Venezia Giulia. Una serie di ipotesi per spiegarlo. Quella più accreditata da diversi mezzi di informazione è legata ai lanci spaziali effettuati da SpaceX, l'azienda di Elon Musk. La spirale di luce sarebbe infatti stata creata dal carburante emesso da un razzo Falcon 9 che viene usato per mandare in orbita i satelliti. In determinate condizioni questo carburante si congela, viene illuminato dal sole e crea questa illusione ottica che ricorda l'immagine di un grande corpo celeste. Dal 27 aprile al 3 maggio il Friuli Venezia Giulia si presenta all'esposizione universale di Osaka e il presidente della regione Massimiliano Fedriga dice: combattere con il dialogo le imposizioni dei dazi. Evitare i dazi americani con il dialogo, è netta la posizione del presidente della regione Massimiliano Fedriga rispetto alle volontà del presidente americano Trump di imporre dazi che impatterebbero molto sull'export regionale. Importante è non utilizzare la rissa per risolvere il problema, ma sedersi con un partner fondamentale per l'Italia e l'Europa, che sono gli Stati Uniti, negoziare, parlare, trovare delle soluzioni. Bisogna ovviamente fare di tutto per evitare i dazi, perché le nostre imprese sono a rischio e gli Stati Uniti rappresentano un mercato importantissimo. Il riferimento ovviamente ai settori più a rischio, soprattutto per l'agroalimentare. In un panorama internazionale sempre più complesso rimangono quindi al centro dialogo e collaborazione con gli altri paesi. Anche per questo motivo diventa ancora più importante la presenza della regione all'Expo di Osaka, con il Friuli Venezia Giulia che sarà presente nella cosiddetta Golden Week giapponese tra il 27 aprile e il 3 maggio, ma con un'anteprima per l'impresa il 25. All'interno del padiglione Italia, nei 100 metri quadri destinati alle regioni, il nostro territorio presenterà alcune delle proprie eccellenze culturali all'interno di un racconto: mosaici, legno arredo, merletti, ma anche fumetti, proprio nella patria degli anime. Il popolo giapponese è appassionato della cultura italiana, come loro, con una grande storia, una grande tradizione, quindi noi racconteremo la cultura del Friuli Venezia Giulia, la storia della nostra regione, l'artigianato, che ovviamente anche quello è storia e cultura, abbinato ovviamente anche alle capacità di innovazione che abbiamo. Trieste, Andrea Sauli, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Osservatorio Confturismo Confcommercio ha previsto che nel periodo dei ponti di primavera del 25 aprile e del 1 maggio si verificheranno in Italia circa 16 milioni di partenze. Di queste 1 milione di viaggi comprenderanno 6 pernottamenti o più a destinazione, per una spesa complessiva di circa 5 miliardi e mezzo di euro. Il 40% degli italiani inoltre sta già programmando le ferie estive. Si punta sul turismo slow, secondo Airbnb. Stanno già arrivando numerose prenotazioni, spiega Paola Schneider, presidente di Federalberghi Udine, dei gruppi in particolare che si muovono per primi. I programmi di vacanza sono incentrati soprattutto sulla bicicletta e sulle escursioni. Il caro energia colpisce allo stesso modo le strutture ricettive, sia gli alberghi che puntano sulla qualità, sia i piccoli che sono però la maggioranza. Mi riferisco, dice, a realtà che possono offrire non più di 40-50 posti letto e che per questo puntano su pacchetti personalizzati e curati su misura. Il Club Turisti Triestini presenta il libro dal titolo Club Turisti Triestini, 140 anni di pluriculturalità nel litorale, 1884-2024, a cura dello storico Alberto Accosta. Il libro celebra il 140esimo anniversario della nascita dell'associazione, ripercorrendo quella che ne è stata la storia, dalla fondazione allo scioglimento forzato del 1922, dalla ricostruzione del 2013 all'attualità. Interverranno l'autore, intervistato da Sergio Gilli, docente dell'Università di Trieste, il presidente del club Alessandro Sgambati e il vicepresidente del Circo della Stampa Luciano Santin, al Circo della Stampa di Trieste alle 17.30. Costa ci ha spiegato cos'è il club e come la sua storia si intreccia con quella della città. È un'associazione di carattere sportivo che nasce nel 1884, quindi in pieno periodo asburgico, che racchiudeva al suo interno dei soci interessati a fare moto. Questo era il motto della società, quindi esplorare il territorio, conoscere le caratteristiche, le popolazioni e i dintorni di Trieste, quindi quello che era l'universo, diciamo, multiculturale dell'impero asburgico. Poi, in seguito a varie vicissitudini storiche, è stato sciolto nel 1922 e da pochi anni è stato ricostituito, sempre con lo stesso spirito, quindi per le conoscenze del territorio, l'esplorazione dei dintorni e quelle che sono le caratteristiche peculiari del territorio che circonda Trieste, anche per superare le differenze, diciamo, nazionalistiche dei popoli e per far conoscere meglio anche gli altri, diciamo. Che cosa ci racconta la storia del club, che si intreccia con la storia di Trieste? Perché è importante? È importante perché studiare la storia del club Turisti Triestini permette di aprire uno spaccato su quella che era una parte della popolazione triestina che, seppur non maggioritaria, era comunque consistente, ovvero storicamente quella parte di Trieste che era sì di cultura italiana, ma che era lealista, quindi fedele alla Casa d'Austria, che aveva vissuto per 5 secoli sotto l'Austria e quindi cercava in qualche maniera di riunire sotto le bandiere del turismo e dello sport tutte, diciamo, le popolazioni del territorio, comunque tutti i suoi soci che rappresentavano tutte le etnie presenti a Trieste, sotto le bandiere appunto dello sport, quindi al di là delle differenze nazionalistiche. E in un periodo di nazionalismi crescenti come l'inizio del Novecento o gli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale, è un caso raro, cioè appunto società sportiva che si dedicava unicamente allo sport e al moto e che non utilizzava queste sue operazioni di facciata con secondi fini appunto di propaganda o nazionalistici. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere positivo su 2 delibere recentemente approvate dalla Giunta regionale, dedicate rispettivamente agli orti sociali e al piano triennale per il contrasto alla solitudine e la promozione dell'invecchiamento attivo. Gli orti sociali, oggetto di contributo, ha spiegato l'assessore Riccardi, sono finalizzati a sostenere l'integrazione sociale e un generale miglioramento del benessere psicofisico delle persone con disabilità. I contributi sono concessi in un'unica soluzione e fino a un massimo di 5.000 euro. Con l'approvazione del piano 2025-2027 la Regione mette a disposizione 180.000 euro per finanziare progetti utili al contrasto alla solitudine e alla promozione dell'invecchiamento attivo, ha proseguito l'assessore. La misura prevede la copertura dell'80% dei costi fino ad un massimo di 20.000 euro. Possono beneficiare del contributo i comuni, le aziende sanitarie, le aziende pubbliche di servizi alla persona, istituti scolastici, università, enti di ricerca e formazione, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Compie 50 anni la Pimpa, la cagnolina inventata da Francesco Tullio Altan. L'occasione per ripercorrere la storia del personaggio, nato quasi per caso e diventato un beniamino di generazioni di bambini, ma anche per raccontare come è cambiata la satira per immagini e che cosa è diventata nell'epoca dei social. Altan, la Pimpa ha compiuto 50 anni, ma se l'immaginava che potesse ancora oggi accompagnare i sogni di tante generazioni, di tanti bambini ancora oggi? No, sinceramente no, perché la Pimpa non è nata come un progetto editoriale, è nata giocando con mia figlia, era una cosa privata. Poi, per una serie di circostanze, è finita il Corriere dei Piccoli, l'hanno voluta e ho cominciato a scrivere le sue storie. Ma non me l'aspettavo proprio questa cosa. La satira politica oggi si può ancora fare con i fumetti? Quel lavoro che faccio io e tanti miei colleghi più o meno coetanei o un pochino più giovani è nato sulla carta, sui giornali, sui quotidiani che si vendevano in edicola, che adesso ormai pochissime persone comprano e soprattutto i giovani non li comprano. E credo che chi ha questo tipo di spirito o voglia di fare queste cose adesso si rivolga di più ai social, a questi altri sistemi che io conosco pochissimo. I personaggi della sua satira, e qualcuno si è mai arrabbiato con lei? Arrabbiato che sappia io no, perché secondo me si arrabbiano poco, perché sono molto, molto impermeabili a queste cose. Qualcuno invece mi ha chiesto le vignette. Spadolini, per esempio, gli piacevano molto le vignette, chiedere le vignette, che lo prendevano un po' in giro, ma a lui piaceva. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Aspettando Magnus è il titolo della tappa di avvicinamento alla mostra Il segno di Magnus da Alan Ford a Tex, che sarà inaugurata sabato 5 aprile. Il direttore artistico del Palazzo del Fumetto, Luca Raffaelli, assieme al responsabile del bookshop, Riccardo Pasquale, racconta il retroscena del lavoro del grande artista Roberto Raviola, alias Magnus, che considerava il fumetto come un mezzo attraverso cui indagare la realtà, impostando un percorso di ricerca artistica che si intreccia ad una ricerca legata all'esistenza, al Palazzo del Fumetto di Pordenone alle 18. Ne abbiamo parlato con Pasquale. È stato una delle mani più felici del fumetto italiano, sicuramente dello scorso secolo. Per me personalmente è anche un autore molto sentimentale, perché io ho iniziato a leggere fumetti grazie a una delle serie che Magnus realizza nella sua vita. E l'idea dell'avvicinarsi a Magnus è proprio di preparare la collettività alla mostra che sta arrivando. Il primo incontro, quello con Luca Raffaelli, è un incontro in cui si racconta di Roberto Raviola, questo è il nome all'anagrafe di quello che poi sarà il grande Magnus, che è un fumettista bolognese che comincia a realizzare i suoi fumetti negli anni 60 e si lancia in quello che è stato il famoso movimento post-diabolic del fumetto nero italiano, quindi quei fumetti che spesso erano venduti sul retro delle edicole perché avevano dei contenuti violentemente e sessualmente espliciti, e che però riscontra subito un grande successo di pubblico, anche perché il disegno di Magnus insieme alla penna di Bunker, che era il compagno, Luciano Secchi, che lo affianca nelle sceneggiature, mette in scena dei personaggi estremamente brillanti, sagaci come Criminal e Satanic, e poi serie con personaggi indimenticabili come Alan Ford. Non sarà mai un autore particolarmente amato dalla critica, ma sarà invece un autore fortissimo amato dai suoi lettori. Io sono del 1996, quindi non ho avuto l'occasione di conoscere Magnus, che è morto l'anno dopo, nel 97. Ad accompagnarmi nella serata ci sarà Luca Raffaelli, direttore artistico del Palazzo del Fumetto, che invece l'ha conosciuto, e vedremo proprio queste cose qui. Andremo a vedere come Magnus fosse un disegnatore che non ha scelto editori o il mezzo del fumetto per ragioni artistiche e economiche, ma proprio come strumento prediletto per la ricerca della sua vita. E Raffaelli, oltre a raccontarci due anticipazioni relative alla mostra, ci racconterà anche dei momenti esclusivi avendolo lui conosciuto. Successo alla scuola di cucina andante nel centro storico di Vienna della masterclass dedicata alla coltelleria maniaghese, dove sono stati utilizzati strumenti di qualità in cucina promossi al pubblico austriaco specializzato, composto da rivenditori, distributori, importatori e opinion leader. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Camera Italo-Tedesca di Monaco di Baviera, nell'ambito di un più ampio progetto a favore della coltelleria pordenonese, avviato dalla Camera di Commercio Pordenone Udine. Protagoniste dell'evento sono state tre ditte di eccellenza della coltelleria maniaghese. Gli esperti coltellinai hanno messo in mostra la loro straordinaria maestria attraverso una varietà di prodotti di alta qualità: coltelli da sashimi, trincianti, spelucchini, coltelli per pane, pan di Spagna, prosciutto e disosso. Era l'ultima notizia per questo GR. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli, per la parte tecnica Walter Vidonis e Riccardo Stoic, dalla Razzani Armando Mucchino. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.